Il signor Thornton aveva deciso di non chiedere a sua madre se il progetto di parlare con Margaret fosse andato in porto. Si sentiva piuttosto sicuro che se quel colloquio era avvenuto, il resoconto che sua madre ne avrebbe fornito lo avrebbe soltanto infastidito e mortificato, pur essendo consapevole che lei l'avrebbe colorato un bel po'. Provava una certa riluttanza a sentir pronunciare anche solo il nome di Margaret. Anche se la biasimava, anche se era geloso di lei, anche se la rinnegava, pur contro il suo volere, la amava disperatamente, la sognava. Sognava che gli andasse incontro ballando e tendendo le braccia verso di lui, così gaia e leggera, che lui ne era al contempo ripugnato e affascinato. Ma quella sua immagine, alla quale il carattere di Margaret era stato completamente sottratto, come se qualche spirito maligno si fosse impossessato solo della sua forma, era così profondamente impressa nella sua fantasia che quando si svegliava faceva difficoltà a distinguere una da due essa, personaggi femminili del poema epico di Spenser, The Faerie Queen. E l'avversione che provava per quest'ultima sembrava avvolgere e sfigurare la prima. E allo stesso tempo era troppo orgoglioso per riconoscere che era debole, tanto da cercare di evitarla. Non avrebbe favorito l'occasione di essere in sua compagnia, né l'avrebbe evitata. Per convincersi del suo potere di autocontrollo, quel pomeriggio perse tempo in ogni affare, forzò ogni movimento a una lentezza e a una ponderazione innaturali. E, di conseguenza, erano le 8 passate quando raggiunse la casa del signor Hale. C'erano questioni economiche da trattare con Bell nello studio e quest'ultimo si dilungò seduto davanti al fuoco in una conversazione noiosa, molto dopo aver trattato ogni questione e quando avrebbero fatto meglio ad andare di sopra. Ma in quanto a spostarsi, Thornton non avrebbe detto una parola. Si spazientiva sempre di più considerando il signor Bell una compagnia noiosissima. Nel mentre Bell gli restituiva il complimento in segreto, reputando il signor Thornton l'uomo più scortese e rude che avesse mai incontrato e terribilmente peggiorato nell'intelligenza e nei modi. Finalmente qualche lieve rumore nella stanza al piano superiore suggerì l'opportunità di muoversi da lì. Trovarono Margaret con una lettera aperta davanti, dei cui contenuti discuteva animatamente con il padre. Quando i signori entrarono, venne immediatamente messa via, ma i sensi vigili di Thornton colsero alcune parole di Hale a Bell. Una lettera di Harry Lennox riempie di speranze, Margaret. Il signor Bell annuì. Margaret diventò rossa come una fragola quando il signor Thornton la guardò, e la cosa che lui desiderava più al mondo era alzarsi e uscire dalla stanza proprio in quell'istante e non mettere mai più piede in quella casa. Stavamo pensando, disse il signor Hale, che avevate seguito il consiglio di Margaret, voi e il signor Thornton, e stavate cercando di convertirvi a vicenda. Vi siete trattenuti a lungo nello studio. E avete pensato che di noi non sarebbe rimasto altro che un'opinione, come la coda del gatto di Kilkenny, un'antica storia popolare irlandese in cui due gatti litigiosi combatterono fino a non lasciare nulla di se stessi se non le code. Ditemi, di chi era secondo voi l'opinione più caparbia? Thornton non aveva idea di cosa stessero parlando e si rifiutò di fare domande. Il signor Hale gentilmente lo illuminò. Signor Thornton, stamattina accusavamo il signor Bell di un bigottismo medievale oxfordiano contro la città in cui è nato e noi, Margaret e io, abbiamo suggerito che gli avrebbe fatto bene frequentare un po' gli industriali di Milton. Perdonatemi, Margaret ha pensato che agli industriali di Milton avrebbe fatto bene frequentare un po' di più gli uomini di Oxford. Non è stato così, Margaret? Io credo di aver pensato che avrebbe fatto bene a entrambi sapere un po' di più l'uno dell'altro. Non pensavo che quest'idea fosse più mia che di papà. Ecco, vedete, signor Thornton, avremmo dovuto migliorarci l'un l'altro giù di sotto, invece di parlare delle famiglie ormai estinte degli Smith e degli Harrison. Comunque, sono pronto a fare la mia parte ora. Mi chiedo quando abbiate intenzione di vivere voi di Milton. Sembra che trascorriate la vostra vita ad accumulare il necessario per vivere. Per vita suppongo che intendiate il godimento. Sì, il godimento. Non specifico di cosa, perché presumo che entrambi dovremmo considerare il semplice piacere come un godimento molto misero. Preferirei che mi fosse chiarita la natura del godimento. Beh, Godimento del tempo libero, godimento del potere e dell'influenza che porta alla ricchezza. Voi lottate tutti per il denaro, ma che cosa vi serve? Il signor Thornton rimase in silenzio, poi disse: Veramente non lo so, ma il denaro non è quello per cui io lotto. E per che cosa allora? È una questione privata. Dovrei essere predisposto ad aprirmi a un simile predicatore e non sono sicuro di essere pronto a farlo. Eh no, disse il signor Hale, noi non andiamo sul privato nelle nostre prediche, ma nessuno di voi due rappresenta un uomo tipico. Ciascuno di voi è troppo particolare per farlo. Non sono sicuro se considerarlo come un complimento. Mi piacerebbe rappresentare Oxford con la sua bellezza, la sua cultura e la sua nobile tradizione. Cosa ne pensi, Margaret? Dovrei essere lusingato? Oh, beh, non conosco Oxford. Tuttavia c'è differenza tra rappresentare una città e rappresentarne gli abitanti. Verissimo, signorina. Ora ricordo, eri contro di me stamattina e simpatizzavi per i cittadini di Milton e gli industriali. Margaret si accorse della fugace occhiata di sorpresa che le diede il signor Thornton e si innervosì per la probabile interpretazione che lui poteva aver dato alle parole del signor Bell. Quest'ultimo continuò: Ah, magari potessi mostrarti la nostra High Street, la nostra Redcliffe Square. Tralascio la nostra università, come concedo al signor Thornton di omettere le sue fabbriche nel parlare delle attrazioni di Milton. Posso permettermi di offendere il mio luogo di nascita? Ricordatevi che sono uno di Milton. Tutto quello che Bell diceva infastidiva oltremodo Thornton. Non era in vena di scherzare. In un altro momento avrebbe potuto gradire la quasi aspra condanna di una città in cui la vita era così in disaccordo con tutte le sue abitudini. Tuttavia ora era abbastanza stizzito da tentare di difendere ciò che non era poi stato attaccato sul serio. Non eri Milton a città modello? Neanche nell'architettura? Domandò ironicamente Bell. No, siamo stati troppo impegnati per occuparci della mera apparenza esteriore. Non dite mera apparenza esteriore, disse il signor Hale con tono gentile, essa si imprime in ognuno di noi sin dall'infanzia, ogni giorno della nostra vita. Aspettate un attimo, disse il signor Thornton. Se vi ricordate, apparteniamo a una razza diversa da quella dei greci, per i quali la bellezza era al di sopra di tutto, e per i quali il signor Bell potrebbe parlare di una vita di svago e sereno godimento, che quasi per intero penetrava attraverso i sensi. Non ho affatto intenzione di disprezzarli, ma neanche di imitarli. Il mio sangue deriva da quello dei Teutoni, l'antica tribù germanica che in questa zona dell'Inghilterra è rimasto piuttosto puro rispetto alle altre. Conserviamo gran parte della loro lingua, conserviamo gran parte del loro carattere. Non consideriamo la vita come un'occasione per il piacere, ma per agire, per produrre. La nostra gloria e la nostra bellezza nascono dalla nostra forza interiore che ci fa trionfare sulle resistenze materiali e su difficoltà ancora maggiori. Disponiamo ancora di un modo per essere teutonici quassù nel Darkshire. Odiamo essere governati a distanza. Vorremmo che ci permettessero di governarci da soli invece che avere continuamente a che fare con le loro leggi imperfette. Noi siamo per l'autogoverno e contro l'accentramento del potere. Per farla breve, vorreste ritornare all'eptarchia? L'eptarchia sassone, ovvero i 7 stati anglosassoni? Bene, ad ogni modo, cancello quello che ho detto stamattina, ovvero che voi abitanti di Milton non avete alcuna reverenza per il passato. Siete fedeli, devoti al dio Thor, il dio della guerra e del tuono dei vichinghi. Se non riveriamo il passato, come fate voi a Oxford, è perché vogliamo qualcosa che possa avere un'applicazione più indirizzata al presente. Se lo studio del passato consente di prevedere il futuro, allora ha un valore. Tuttavia, per uomini che, come noi, avanzano a tentoni in circostanze del tutto nuove, sarebbe meglio se fossero le parole dell'esperienza a indicarci come agire, in modo diretto e immediato per quello che ci riguarda. Ci sono difficoltà che vanno affrontate e il nostro futuro dipende da come si affrontano e si superano, e non da come semplicemente si accantonano. La saggezza estrapolata dal passato può aiutarci ad affrontare il presente. Eppure no, La gente sa parlare di utopia molto più facilmente che del dovere del domani, e poi quando quel dovere viene compiuto interamente da qualcun altro, tutti sono pronti a gridare vergogna, vergogna. E io non ho ancora capito di cosa state parlando. Voi di Milton accettereste di sottoporre tutte le vostre attuali difficoltà a noi di Oxford? Non ci avete ancora messo alla prova. Il signor Thornton scoppiò a ridere. Sono convinto che quello che ho detto avesse molto a che fare con quello che ultimamente ci sta preoccupando. Stavo pensando agli scioperi che abbiamo avuto. Questioni piuttosto complicate e dannose, come sto scoprendo a mie spese. Tuttavia, quest'ultimo sciopero che mi sta arrecando parecchi guai è stato rispettabile. Uno sciopero rispettabile? Disse Bell. Ah, ne avete fatta di strada dalla venerazione di Thor. Margaret percepiva, più che vederlo, che il signor Thornton era contrariato per le continue battute su quello che lui avvertiva come un argomento decisamente serio. Cercò di portare la conversazione lontano da quel tema che per una parte di loro era poco interessante, mentre per l'altra lo era davvero, perché la riguardava. Si sforzò di dire qualcosa. Edith dice che i tessuti di cotone stampati che trova a Corfù sono migliori e più economici di quelli di Londra. Davvero? Disse suo padre. Penso che sia una delle esagerazioni di Edith. Ne sei proprio sicura, Margaret? Beh, sono sicura che dice così, papà. Beh, io non ho dubbi sulla cosa, disse il signor Bell. Margaret, sono così convinto della tua sincerità che sono disposto a estenderla anche a tua cugina. Non credo che una tua cugina possa mai fare delle esagerazioni. La signorina Hale è una persona di così grande onestà, disse il signor Thornton con amarezza. Non appena lo ebbe detto si sarebbe morso la lingua. Chi era lui? E per quale ragione doveva usare quella sua colpa per pugnalarla in quel modo? Quella sera era proprio sgradevole, di cattivo umore per essere stato tenuto così a lungo lontano da lei, irritato dalla menzione di un nome che pensava appartenesse a un pretendente più fortunato, stizzito adesso perché non era stato capace di fronteggiare a cuor leggero uno che, con discorsi gai e spensierati, stava cercando di far trascorrere una piacevole serata. Il buon vecchio amico di entrambe le parti, cui modi a quel punto dovevano essere ben noti a Thornton, che lo conosceva da parecchi anni. E poi, ah, rivolgersi a Margaret in quel modo. Non si era alzata e non aveva lasciato la stanza come aveva fatto in passato, infastidita dalla sua rudezza e dal suo temperamento. Era rimasta seduta, abbastanza tranquilla. Dopo un primo fuggevole sguardo che esprimeva un doloroso stupore, tanto che i suoi occhi parevano quelli di un bambino che si è imbattuto in un secco e inaspettato rifiuto. Si dilatarono lentamente in una tristezza mesta e colpevole e poi si abbassarono. E lei si piegò sul suo cucito e non disse più una parola. A lui non poté fare a meno di guardarla e vide il suo corpo percosso dal fremito di un sospiro, come se un brivido insolito l'avesse scossa. Si sentiva come si sarebbe sentita una madre allontanata dalla sua creatura nell'atto di cullarla e coccolarla, prima che il suo mite sorriso, fiducioso della forza dell'amore materno, potesse mostrare il rinnovarsi di quel sentimento. Thornton dava risposte brevi e taglienti. Si sentiva a disagio e contrariato, incapace di distinguere il serio dal faceto, impaziente anche solo di un suo sguardo, una parola, davanti ai quali prostrarsi con l'umiltà di un penitente. Ma lei non alzava lo sguardo né parlava. L'ago, guidato dalle sue dita morbide e affusolate, entrava e usciva dal cucito in modo così sicuro e veloce come se quello fosse il lavoro della sua vita. Non poteva provare qualcosa per lui, pensò, altrimenti la fervente passione del suo desiderio l'avrebbe spinta ad alzare i suoi occhi, anche solo per un istante, per leggere il pentimento tardivo in quelli di lui. Avrebbe potuto attirare la sua attenzione prima di uscire, di modo che con un qualche strano gesto rude, fatto di proposito, si sarebbe potuto guadagnare il privilegio di svelarle il rimorso che gli rodeva il cuore. Fu un bene per lui che una lunga camminata all'aria aperta mettesse fine a quella serata. Lo fece rinsavire e tornare alla sua seria determinazione. Da quel momento in poi l'avrebbe evitata il più possibile, dato che la vista stessa di quel viso e di quella figura, il solo suono di quella voce, come dolci arie della più pura melodia, avevano un tale potere su di lui da privarlo dell'equilibrio. Bene, aveva capito cos'era l'amore, un acuto dolore, un'esperienza atroce in mezzo alle fiamme del quale era costretto a dimenarsi. Ma avrebbe attraversato quella fornace lottando e avrebbe raggiunto la serenità della mezza età, molto più ricco e umano per aver sperimentato quella smisurata passione. Dopo che lui ebbe lasciato la stanza in modo piuttosto sgarbato, Margaret si alzò dal suo posto e si mise a piegare il lavoro in silenzio. Le lunghe cuciture erano pesanti e le sue braccia stanche non erano abituate a quel peso. I tondi lineamenti del suo viso assunsero una forma allungata e più spigolosa e il suo aspetto, nell'insieme, era quello di una persona che aveva trascorso una giornata estremamente faticosa. Mentre i tre si preparavano per andare a letto, il signor Bell borbottò qualche parola di biasimo nei confronti del signor Thornton. Non ho mai visto un uomo così rovinato dal successo. Non gli si può dire niente, nessun tipo di battuta. Ah, ogni cosa sembra pungerlo nell'orgoglio. Una volta era semplice e nobile, come una giornata senza foschia. Era impossibile offenderlo perché non aveva vanità. Non è vanitoso adesso, disse Margaret, dando le spalle al lavoro e parlando con calma chiarezza. Non era del suo solito umore stasera. Qualcosa deve averlo infastidito prima di venire qui. Il signor Bell le lanciò una delle sue taglienti occhiate da sopra le lenti. Era lì, in piedi, piuttosto tranquilla, ma dopo che lei ebbe lasciato la stanza, chiese improvvisamente: Hale! Non vi è mai venuto in mente che tra Thornton e vostra figlia ci sia quella che i francesi chiamano una tendresse, una tenerezza? Mai, disse il signor Hale, inizialmente sorpreso e poi turbato da quel suggerimento. No, sono sicuro che vi sbagliate, sono quasi certo che siete in errore. Se c'è qualcosa è soltanto da parte del signor Thornton, poveretto. Spero e confido che non pensi a lei, perché sono sicuro che lei non lo vorrebbe. Beh, sono uno scapolo e mi sono tenuto lontano dai rapporti amorosi tutta la vita, quindi forse la mia opinione non vale niente, altrimenti potrei dire che su di lei ho intravisto parecchi segnali. Tuttavia, sono sicuro che vi sbagliate, disse il signor Hale. Magari Thornton prova qualcosa per lei, nonostante sia stata piuttosto scortese con lui certe volte, ma lei, beh, Margaret non penserebbe mai a lui, ne sono sicuro. Una cosa simile non le è mai entrata nella testa. Basta che le sia entrata nel cuore, disse Bell. Ma la mia è una semplice opinione, detta tanto per dire, su quel che potrebbe essere. Suppongo di essermi sbagliato. E sia che abbia ragione o torto. Oh, ho sonno. E quindi, dopo aver turbato il vostro riposo notturno, come vedo, con le mie inopportune fantasie, mi ritiro con animo tranquillo. Tuttavia, il signor Hale decise che non si sarebbe lasciato disturbare da un'idea così insensata e allora rimase sveglio, determinato a non pensarci. Il signor Bell partì il giorno seguente, pregando Margaret di considerarlo come una persona in diritto di aiutarla e proteggerla in ogni difficoltà, di qualsiasi natura potesse essere. Al signor Hale disse: Quella vostra Margaret mi è entrata fino in fondo al cuore. Abbiate cura di lei, poiché è una creatura molto preziosa, lo è fin troppo per Milton. Starebbe bene soltanto a Oxford in realtà, per la città intendo, non per gli uomini. Non posso ancora trovarle un compagno. Quando ci riuscirò, porterò qua il mio giovane per metterlo al fianco della vostra ragazza, proprio come il genio delle Mille e Una Notte ha portato il principe Camaralzaman per metterlo vicino alla bella principessa Badura. Mi prego di non fare una cosa simile. Ricordate le disgrazie che ne derivarono e inoltre non posso fare a meno di Margaret. No, ripensandoci, faremo in modo che fra 10 anni sia la nostra infermiera quando saremo due vecchi e scontrosi malati. Sul serio, Hale, vorrei che lasciaste Milton. È un luogo che non vi si addice affatto, nonostante ve l'abbia raccomandato io all'inizio. Se lo faceste, reprimerei i pochi dubbi e accetterei un alloggio all'università, e voi e Margaret verreste a vivere nella canonica. Voi sareste una sorta di curato laico e mi aiutereste nel mio lavoro, mentre lei sarebbe di giorno la nostra governante, la Lady Bountiful del paese, e la sera ci leggerebbe qualcosa per farci addormentare. Potrei essere molto felice in una vita così. Che ne pensate? Mai, disse il signor Hale con decisione. Ho già fatto il mio grande cambiamento e ho pagato il prezzo della sofferenza. Starò qui per il resto dei miei giorni e qui sarò sepolto e mi perderò tra la gente. Beh, non rinuncio ancora al mio piano, ma per adesso non vi tormenterò più. Dov'è la perla? Vieni qui, Margaret, salutami con un bacio e ricordati, mia cara, dove puoi trovare un amico sincero fin dove arrivano le sue capacità. Sei la mia bambina, Margaret, ricordatelo, e che Dio ti benedica. E così ritornarono alla monotonia della vita tranquilla che avrebbero condotto da quel momento in poi. Non c'era nessun malato per cui sperare e temere, persino il pensiero degli Higgins, per così tanto tempo un vivido interesse, sembrava non essere più una priorità assoluta. I figli di Boucher, rimasti orfani di madre, reclamavano tutta la cura che Margaret poteva dedicare loro. E quindi andava piuttosto spesso a trovare Mary Higgins, che li aveva in affidamento. Le due famiglie vivevano in un'unica casa. I figli più grandi frequentavano le scuole per i bambini poveri, e di quelli più piccoli, quando Mary era al lavoro, si occupava la gentile vicina, il cui buon senso aveva colpita Margaret il giorno della morte di Boucher. Certamente veniva pagata per il suo disturbo, e d'altronde in tutti i suoi piccoli piani e progetti per questi orfani Nicholas mostrava una certa lucidità di giudizio, un modo ordinato di ragionare, che erano in disaccordo con quegli eccentrici slanci di azione che aveva avuto in passato. Lavorava con una tale costanza che Margaret non lo vedeva spesso durante quei mesi invernali, ma quando succedeva, notava che si irrigidiva ogni riferimento al padre di quei bambini, che aveva preso sotto la sua tutela con testa e cuore. Non parlava facilmente del signor Thornton. A dire il vero, disse Higgins, mi fa una gran confusione. Di Thornton ce n'è due. Uno è quello che conosco da un sacco di tempo ed è padrone fin dentro il midollo. L'altro del padrone non ha neanche l'unghia. Come poi quei due tizi possano stare dentro un corpo solo? Ah, per me è un bel rompicapo. Però non mi faccio mica battere. In questo periodo viene qui piuttosto spesso, così ho imparato a conoscere il giovane che è un uomo, non un padrone. E penso che è interessato a me quasi come io a lui, perché si siede, ascolta e mi sta a fissare, quasi che sono una strana bestia appena catturata in una zona qui attorno. Ma non mi scoraggio per niente. Ce ne vuole per scoraggiarmi in casa mia, come lui può vedere, e gli dico alcune mie idee che penso avrebbe fatto meglio a sentire quando era più giovane. E non vi risponde? Chiese il signor Hale. Beh, non credo che i vantaggi li ha tutti lui, perché un po' di merito me lo prendo, visto che a lui un po' lo miglioro. Certe volte dice una o due cose sgradevoli, che all'inizio, quando ci fai caso, non sono simpatiche, ma ci hanno, beh, uno strano sapore di verità quando inizia a masticarle. Scommetto che verrà stasera per insegnare ai bambini. Non è mica soddisfatto di quello che sanno, vuole esaminarli. Che cosa fanno? Iniziò a dire il signor Hale. Ma Margaret, toccandogli il braccio, gli mostrò il suo orologio. Sono quasi le 7, disse. Adesso le serate si stanno allungando. Vieni, papà. Riuscì a respirare liberamente soltanto quando furono a una certa distanza dalla casa. Dopodiché, quando si calmò, avrebbe voluto non avere così tanta fretta. Infatti, per qualche ragione, vedevano il signor Thornton molto di rado adesso, e lui forse sarebbe andato a trovare gli Higgins, e in nome della vecchia amicizia le sarebbe piaciuto vederlo quella sera. Sì, veniva molto raramente, neanche per lo scopo freddo e insensibile delle lezioni. Il signor Hale era deluso dallo scarso entusiasmo del suo allievo per la letteratura greca, che soltanto poco tempo prima gli aveva suscitato un così grande interesse, e adesso accadeva spesso che arrivasse un frettoloso biglietto da parte di Thornton proprio all'ultimo momento, in cui si diceva che era così impegnato da non riuscire ad andare a leggere con il signor Hale quella sera. E sebbene altri alunni avessero preso il suo posto, per quanto riguardava l'ora, nel cuore del signor Hale nessuno era come il suo primo studente. Era demoralizzato e triste per quella parziale conclusione di un rapporto che era diventato importante per lui, e soleva sedersi a riflettere sulla ragione che poteva aver causato quel cambiamento.